dove sei? Ah, scappa. Bella radio, dai, bella radio. Che cosa stai usando? Andiamo, vai, andiamo, bobo. Bene, bene, capito. Stai andando bene, è una bella radio. Complimenti. E che antenna? Gianni! Ehi, allora lasciami un tempo, io dico lì. Stavo spostando il mobile. Ciao Luca! Buonasera! Chi c'è? Sento solo a te! Cosa? Che io sento solo a te, chi c'è? Calvino! Calvino è Porta Torres! Si chiamava? Non me lo ricordo più. È troppo tempo che non entra. Vabbè, camminato il figlio. Ah, cappa, cappa, dai. Ho visto che vi stai facendo ascoltare la musica. Cos'è lui, musicista? Sì, deve imparare un po' a maneggiare con il mixer e roba là. Diciamo di sì, non sto molto bene. Devo essere operato al femore perché mi si è consumata la cartilagine e non sto più lavorando. Ho capito. A tenere la glicemia a posto, e vabbè, un po' per tutti è così, dai. No, io a questo periodo sto andando bene, dai, sto andando bene. Il massimo che ce l'ho è sempre 130, 140, proprio andando male. Sto andando bene, dai, la mattina prima ce l'avevo quasi a 300, 200, non guardo così, adesso ce l'ho 130, 140 la mattina. E l'unica cosa è non mangiare pane. Io ho eliminato pane e pasta, boh, la mangio una volta alla settimana. E lo so, ma la Sadini vede lo dotto, il bello parato, io mica guardo, mica. Guarda, meglio di me non ti capisce nessuno, solo chi ce l'ha capisce, dai. Io è uguale. Avanti. Ma io sento solo a te, io non sento altro. C'è Joker di Porto Torres, sai se mi sono ricordato io il nominato. Oh, Joker, lo vedi? La vedi l'antenna in campagna dove si scappa a cappa? Vabbè, dai. Prima ci sono le priorità, prima il pupillo. No, no, però l'incrocio della morte. Ehi, sì, Santiago 4, ma la radio è sempre a posto. La radio va benissimo, capisci? Sempre bella forte, pimpante. E a me come mi ascolti? Io ho messo l'antenna nuova. E la Game Master, io te la consiglio perché va bene e non c'è radiato. È un'antenna leggera, la metti su qualsiasi palo, non rompere le scatole. Oscilla molto col vento, ma resiste a 160 km orari, più della Mantova. Luca, ci si... Ehi, sento solo a te. Lo so, io sto parlando con Joker, tu a Joker te lo ricordi? Sì, lo conosco pure, ce l'ho anche amico su Facebook. Appagato, mamma mia, adesso, dopo che nasce il figlio ci mette la tazzera anche giù, dai. E fa musica pure, dai. Joker, ma dove ce l'hai la campagna? Lì vicino dove ce l'aveva benissimo. Joker, non ti ascolto più, dove stai passando? Sono i vidriati. È molto basso adesso, sì, molto basso. Prima mi arrivavi come una bomboletta, adesso sei bassissimo. Dai Joker, se mi ascolti ancora ti saluto, dai, ti auguro una buona serata. E siamo qua, quando vuoi. Siamo sempre qua. Cappa, avanti al suo Bruno. Noi te lo permettiamo, tu fallo e noi poi ti diamo i controlli. Luca, lo senti al lupo grigio? Cazzo, il suo Bruno Bescido. No. Cappa lui. Ha detto che sta andando via le Trieste per fare delle prove tecniche di trasmissione, dai, adesso lo ascoltiamo. Forte e chiaro, un po' grigio, mi hai ascoltato? Anch'io ti ascolto così, Santiago Nova Radio 5, va bene, dai, da lì vai bene. Ok, andava bene, avanti. Ma attacca lì. Ehi, è comportabile. Lupo grigio, quello che va via da Trieste. No, non arriva qua. Quello che sento a bomba sei tu e basta. Cos'è Lupo grigio? Cos'hai detto? Luca, sentito, ha detto che ti sente più forte di me. Non lo sento, io addirittura. Non c'è Smith, capito? Come fai? sua. Luca, è cuoco, ma ne... E me la sta lì. Ciao Luca. È vero. È vero, sì. Già. Sarami. Ciao, c'è Natalino. Sì, ciao Natalino. Ciao Gianni G. Mi ti sta ascoltando anche Marco, il qua a casa. Ciao Marcos. Ciao, oppa le caracche, da così. Come la paracca da con su? Sì, Nicola, buonasera, ciao. Ben sentito. Vicino a casa, sì. Sì, lì ti ascoltano bene tutti, dove sei tu, che già hai aperto. Rimaniti lì, così non cammini. Sì, la stessa cosa, ti ascoltiamo bene tutti. Può darsi che magari si senta anche Luca se ti avvicini verso via Pascoli. Natalia, va bene, la voce calda della frequenza. Come già, non ho capito. Cos'è questa voce calda della frequenza? Ho detto che anche Marco ha detto che c'è la voce calda l'apparato. Sì, la voce calda della frequenza, ma butti giù a me. Tu che sei caldo, cos'è la frequenza? Io sono già il caldo, ma da tutte le parti, non sono le frequenze. Sì, vabbè, riprendete che vi ascolto, dai. E resta, resta qua. E tu cosa mi dai? E poi te lo dico. Avanti, lupo grigio, sì sì. Adesso passo. Ma stai andando verso via Pascoli. E adesso è aumentato il segnale. Ora sei 7. Adesso sei 9. Ma arrivi 9.40. E poi forse sei sotto casa tua, in linea d'aria. Ma dai, grido, sei buon comare. Come ti copri la via del Trieste, ti copio qua. Ehi, c'era Joker, ma poi non l'ho più sentito, l'ho salutato perché non l'ho sentito più. E poi c'è Luca. Luca, avanti. E sono qua già, non lo sento. Due, adesso sono a circa metà del ponte, capo. Dove stai andando? A che parte stai andando? Via Pascoli. Sto passeggiando così, tanto per passeggiare, tanto per spendere qualche chilo, insomma, qualche... Poco, sì, verso via Pascoli, capito? Occhio a non attraversare parlando all'apparato, che ti pone lì sotto. Non ho capito, ripeti. Ho detto, stai attento quando attraversi, che se no ti mettono sotto. Ah, sì, sì, sì. Guarda, ah, che bella veduta che c'è qui. Dal centro del ponte si ha detto che a sinistra... Praticamente vedo tutta la città, capo. Anche io stasera ho visto una bella veduta, ma era diversa però. Magari qualche vecchio ricordo. Ho visto un bel mandolino. Anch'io mi ricorda qualcosa, capo. Ma per me non so se lo ricordi, Ancora lavoriamo. Ma io sono un nonno, quindi. Vabbè, anch'io ho l'età tua, io sono del 59. Quando lì, ma a piedi o in macchina? 59. A piedi. Chi che è? Ma parlava lui. Ohia. Vabbè, dai, non parliamo. Il più vecchio sono io, 57, classe di ferro. È vero, no? Più giovane sono io, classe 1974. E da quell'età si comincia poi a non funzionare più. A me mi funziona una bellezza già. Oh, yeah. C'è presente il palo che abbiamo messo a te? Usi uguale. No, quel mio non si piegano. No, sta scherzando. L'ho addrizzato comunque. Oh, i tiranti? Sì, l'ho addrizzato, adesso è bella dritta. No, tu l'hai fatto. Io con Marco, con un amico mio. Ah, hai visto? Meglio così. Boh, adesso boh, sei pensionato, mica, perché è un'antenna, diciamo, abbastanza leggera. Se ne cade non fa danni. Boh, ci sto pensando, mi sembra l'autocostruisco. Ah no, chiedi la Giulio che l'ha già fatta. Avanti, lupo grigio. Sì, mettono né cofio, né ombrello e né cappuccio, cambio. E vabbè, così almeno cresce. No, comunque qui dal ponte Rosello, da circa la metà, c'è una visuale di tutta la città. Sì, è vero, è vero. Anche da Freddarieta, se tu vai da Bricome, prova a guardare il panorama che c'è, si vede a destra, a sinistra, al centro, tutto si vede, il paese. Sì, sì. Ora, ti faccio una domanda, io non sono sassarese, anche se a 30 anni che sono qui, ma se dovessero chiudere il ponte Rosello, come si arriva da questo lato? Da ma sta facendo, via Bongino, giri via Bongino, poi fai il giro, non ci vuole niente. Le soluzioni più semplici sono le migliori, hai ragione, hai ragione. Io penso che da qui fino a Porto Torres ci dovrei anche arrivare, capito? E poco fa c'era Joker che di Porto Torres, però era il furgone, era in campo. No, ma non lo sentiva lui, non lo sentivo manco io, né Luca. Perché eri positivo a quella zona già. Io lo sentivo anche forte all'inizio, poi vabbè si è abbassato piano piano, ma lì c'era forse il blu. Probabilmente le varie principali Porto Torres venendo da Tassa, cose via Tassa di questo. Questa è un'antenna lunga, probabilmente sarà lui interrogativo. No, ragazzi, venendo da Tassa è l'antenna lunga, ce l'hai Eugenio. Allora, mi sono espresso male, andando a Porto Torres, dalla 131 naturalmente, credo che quella sia via Tassari, credo, vedo un'antenna lunga, sicuramente oppure un radioamatore o un CD. Allora, c'è, lì ce n'è uno che è radioamatore di fronte alla caserma dei carabinieri, stai dicendo questo? No, no, dicevo proprio sulla via la via Tassari, proprio quella che praticamente dalla 131 arrivi, insomma, tanto per capirci dove c'è anche il rifornitore di benzina, se non sbaglio. Ah, io ho capito, là. Ah, sì, sì, quella lì non se n'è abbandonata, c'è da un bel... Ho capito, comunque, come diciamo che qui comunque una piccola ruota c'è. Quattro chiacchiere la sera si fanno pure, in altre città proprio assolutamente non c'è niente. E un attimo che stanno il mio amico, se fa usare. Eccomi qua in posizione. Bene, comunque stavo dicendo che secondo me la CP tornerà di moda come stanno tornando di moda i dischi vinile. Speriamo bene, comunque il più giovane qua a me da 50 anni, speriamo che anche i giovani possano entrare nella città. Non è vero, Joker è giovane, Joker quello di Porto Torres è giovane, è una coppia giovane, stanno per avere il primo figlio, quindi si può immaginare, avrà 35-33 anni. Una volta ho copiato uno di Porto Torres, non so se è lui. No, quello è Eugenio. Eugenio è uno e Joker è un altro. E a Porto Torres sono rimasti in pochi. Prima pensa che era tutto pieno di CB a Porto Torres, anche i pescatori avevano la mantova a 5 sopra le imbarcazioni e modulavano anche dalle imbarcazioni. Beh sì, oggi come oggi, ma io onestamente Facebook non ce l'ho, Twitter non ce l'ho, mi rifiuto di averlo. Io sono nato con la radio e voglio continuare con la radio. Ma io faccio uno e l'altro. Avanti, l'attacco. Sono occupato già. Ti prendi? Ecco perché mi perché anche con l'altra batteria, quella che ho comprato da Fusaro, mi sentivo bene con lo stesso segnale da Trieste, e dipende la zona dove sei, capito? Poi quando ti deciderai a metterla a casa, ti resterai al calduccio e ti potrai sdraiare come ho fatto io adesso, sul letto, tranquillo, e ti rilassi. Devi andare con la concessione e con la stessa pagata al capo condominio, gli fai vedere quello, gli fai una fotocopia e gli dai quello lì, gli dici guarda io ho la concessione e ho tutti di voi, se non siete sicuri andate su internet e vi scaricate tutte le leggi, perché c'è scritto tutto, esattamente. Ma poi io no, per informazioni io conosco il circo sempre lì al primo piano dell'ufficio postale, che riconosco. Oggi ad esempio ci sono andato e ho chiesto notizie sul PRM 446, siccome io l'anno scorso ho dichiarato che avevo solo il CP, non il PRM, mi ha detto che lo posso detenere, però mi ha consigliato di fare un seguito a quella lettera dell'anno scorso dove io chiedevo la difesa, che detengo anche un PRM, capito? PMR. Ah, ho capito. Vabbè. Ma la Sassari non ne sanno molto, bisogna chiedere a Cagliari, bisogna telefonare a Cagliari per queste cose. Sassari più che altro c'ha la polizia postale scomposta che fa i controlli. E ne hai parlato dell'antenna che vorresti mettere, del condominio, non ne hai detto niente. Effettivamente mi ha dato il numero di una signora di Cagliari che ho telefonato lì. No, poi per il coso, per il condominio, sì, io lo so. So benissimo che è addirittura una legge del 1942. Addirittura sono obbligati a farli passare nelle loro proprietà, non è quello il punto. Ma adesso voglio vedere cosa ne pensano al condominio. Comunque, il condominio non capisce nulla, non capisco nulla, a meno che siano stati CP allora, ma se no non ne capisco di queste cose, specialmente se c'è gente giovane che non sa manco l'esistenza di queste cose. Beh, effettivamente sì, non sanno, Fabio, io sono un CP, non sanno di che cosa si parla. Barche, sì, poi tu fai un giro e vedi dove sono. niente, c'è lo scanner di Assiferro, dove c'è Jack. Ci sono le imbarcazioni anche che mutano la via. No, no, non ci sono dei canali stabiliti sia per i cappellisti sia per i fuoristrada. Il canale 9 è quello di emergenza e poi c'era l'uno che era delle barre nautiche. Un tempo, adesso stanno usando VHF Marini. Sì, qualcuno ce l'ha ancora la 27 oltre VHF Marini, perché sono salito sull'imbarcazione e ce l'ha il 23. E poi, vabbè, gli altri decidono loro dove andare, capito? Il canale 5 non è di Caduisi, se l'hanno preso. Poi, per rispetto, magari tu non c'entri dove ci sono loro, perché stanno lavorando, ma solitamente, cioè, non è una cosa tassativa che tu sul 5 non puoi entrare. Ti chiamo avanti, avanti chi vuole entrare. Luca, ripeto. Ciao già, c'era una portante sotto di te a più riprese, o forse qualcuno che stava provando. Buonasera a tutti. Ciao Marco, ben sentito. Avanti questa portante. No, vedere se mi voleva disturbare, non ce l'ha fatta. Marco. Cappa, scusate che ero distratto. Ciao Lupo Grigio, Gianni, non so chi altro c'è, Luca forse, Natalino, Cavino, il poco che sono riuscito ad ascoltare, dai, stavo mangiando qualcosa, tanto per cambiare. Tu a Cavino lo ascoltavi bene, Marco? No, no, no, basso, basso, poco più del QRM, anzi prima era migliore di segnale, poi si è abbassato ulteriormente e è sparito. Vabbè, quello anche come, ma mi arrivava fortissimo di radio sempre. E infatti si salvava per la radio, ma solo per quella, purtroppo non sono favorevole, poi non so le condizioni sue, se era baramobile, se era con l'antenna sopra, non credo però, se no lui arrivava a sfiorare il 9 in certi casi. Ciao Lupo Grigio, avanti, buonasera da Marco. Allora Lupo Grigio, qua arrivi con un segnale molto variabile, c'è molto QSB, alle volte sparisci quasi di segnali, alle volte arrivi 9, a sfiorare il 9, dai, molto variabile, comunque bene o male ti copio, dai. C'è QSB perché sta camminando? È un segnale di 6, 6 e mezzo, la radio naturalmente è da omologato, diciamo, da apparato omologato. K. Chi altri c'è, Gianni? C'era Luca, ma è Natalino. Natalino dice ti ho occupato, Luca non risponde. Ho visto un calo un po' nelle presenze, dai. Ondate, dai. Io poi già non me la sento di mio, quando posso entro già, quando non me la sento non entro. Purtroppo così è la situazione, dai. Cerca di darti un po' di trio. Magari un elettroshock mi aiuterebbe. Ti metto il peperoncino dietro, vediamo un po' se ti se mi calunisce. Marco, quanti danno la supposta da Gianni? Vedrai che ti fa bene. Dalle la tua, che a me i maschietti non mi piace. Chi c'è? Chi c'è? Quel disturbatore di TV di Natalino. Immagini questo Gianni, adesso non gli piacciono i maschietti, per fare un piacere a un amico, gliela puoi dare la supposta. Le polaggi vedo, quelle lunghe lunghe, quelle sembrano rare. Più grande è, più fa bene. In sostituzione c'è l'asino della crocca. Oi, oi, oi. Mamma mia. E tu già, che non ti sento da qualche giorno, come anda? Marco, è sempre al solito, la gamba mi fa sempre male, sempre per le due, lui ha, per carità. Ho telefonato al dottore, l'altro giorno gli ho detto di mandarmi parlare con il primario, perché mi stavo dimenticando per recettive. No, se non vai assolutamente. Ne ho parlato anche l'altro giorno, comunque adesso glielo chiedo quando è il giorno sicuro, glielo faccio sapere. E invece non mi ha risposto, allora lì ho rimandato un altro messaggio, ho risposto, mi ha contattato lui, poi ce l'ha fatto in un bel bar. Leia, ma tu avevi fatto delle analisi preventive previ ricovero, anche se poi il ricovero può essere dopo uno, due, tre mesi? Sì, ho fatto le analisi previ ricovero, ho fatto l'elettrocardiogramma, analisi del sangue, eccetera. Leia, fra pochi giorni mamma deve fare quelle, però dice potremmo chiamarla fra uno, due, tre mesi, sei, chi lo sa, alla fine non c'è niente di certo, anche lei in attesa un anno e mezzo, due, ho perso il conto anche, diciamo che si è trascurata un po', è roba che andava fatta da prima, ha detto il l'ossologo, come si chiama, mannaggia non mi viene l'idea, già capito dai. Ortopedico, l'ossologo. Ehi, già hai capito, non mi veniva il termine tecnico. Lo so, questa è nuova. Avanti, in un po' grigio, ma te ne immagini che gente c'è qua? Io ti ricevo 9, radio 5. Sì, qua ha sfiorato il 9, K, ha sfiorato il 9. Sempre un po' di QSB, giustamente. 9, 5. 8 e mezzo. Già va bene, anche il mio va bene, va molto bene anche il mio, ma non è stato usato, non tolgo le batterie perché sennò si ossidava. No, io mettevo batterie normali, per la dura c'è, però te ne scarica subito. Come si scarica lo comincerà subito più in basso. Ma così spendo un po' di soldi, dai. Ci vuole l'alimentatore come ti ho detto io direttamente, andata a casa e un'altra cosa. Vabbè, adesso te lo pensare come portatili. Comunque un tempo si usavano, c'erano dei Midland che si portavano a spalla, c'era la batteria, tutto l'apparato dentro e c'aveva il microfono e tutto, parlavi dal microfono, lo tenevi sulla spalla. Quello lo usavamo quando c'era la cavalcata, che la facevano i CD allora. Ciao, sì, ma si trovano ancora su internet. Ciao, Giulio. Ciao a tutti. Il gruppo elettrogeno dice di metterti a spalla, che va qua lì, almeno si scarica subito. Sì, che il gruppo elettrogeno fa un fiago e il rumore che lo metti in spalla, allucinante. È proprio fantasia. Ciao Giulio, ben entrato. Una volta mi ricordo quando c'erano cavalcate, manifestazioni del genere, no? C'erano quelli, il Firro o Serro, come si chiamavano, avevano quella toppa sul braccio. Per gli apparati spalleggiabili mettevano una marea di, cioè una barca di pile, compravano, no? Purtroppo gli accumulatori nickel cadmio all'epoca erano blandi, mi pare fossero massimo 500 mAh, cioè mezzo amperti si scaricavano forse in un quarto d'ora, in 20 minuti, se parlavi spesso. Adesso in confronto ci sono batterie 2003, 2004, 2005, forse anche di più. Poi vabbè, se vai dopo un certo valore cominciano ad avere un'autoscarica maggiore, così avevo letto. Non ho avuto la conferma comunque. Adesso è un bijou. Però i portatili si sono ridotti, troppo di antenna, di tutto. Erano belli quegli apparecchi spalleggiabili. E come dicevamo all'epoca, praticamente te li tiravi a spalle. Vai Giulio. Io ne ho acquistato uno, poi glielo riportato indietro perché c'aveva tutto il posto, vanno a battere tutto rucciloso, tutto pieno di luce. Ciao Giulio, ogni tanto quando me la sento entro di più, un calo di, comunque ho visto poco movimento mi pare tra ieri e oggi, poi vabbè, proprio ho sentito Lupo Grigio, Gianni, ho incontrato Luca e un po' di ruota si è formata, dai, almeno passare mezz'oretta così, dai, perché la gente più va, si lamenta e poi non è. Lo possiamo sempre costruire, il problema è l'assenza, perché antenne telescopiche non se ne trovano più, capo. Kappa, mi ricordo, Nicola, l'altro giorno stavo parlando di quella ditta che vende occhiali, che vendeva online questi residui di antenne, no? E ce n'era una particolarmente appetibile, telescopica, mi pare, con la bobinetta al centro. E tu mi avevi detto che non le vendono più, le hanno terminate, e quelle valevano oro, perché applicate con l'adattatore BNC fa molto, un quarto d'onda effettivo, scusate, dovrebbe essere un ottavo d'onda effettivo, avrebbe reso molto molto molto su quel portatile. Beh, effettivamente io però ho comprato un altro modello che non ha la bobina centrale, ma l'ho montata e praticamente voi non mi sentite con quella, quindi non funziona nel mio apparato, ma probabilmente non risuona bene, sì, mi ricordo, due modelli, purtroppo non se ne trovano più. Guarda, le uniche antenne lunghe, tra virgolette, erano quelle a nastro che vendeva la Intec e forse anche la Midland, antenna a nastro, però era nell'ordine di quanto poteva essere 60 cm, 70, poi il resto c'era una bobina alla base per aggiungere, penso, l'ottavo d'onda, almeno il minimo sindacale, insomma. Vai Giulio, riprendi. Ok, per salutare Nicola. Ciao Nicola, ti sento a momenti, sì, a momenti no, so perché stai camminando così per strada. Ciao Nicola, riprendi. Sì, adesso mi sono fermato. Comunque, su internet, su YouTube c'è un video che riguarda il mio apparato. Praticamente questo ragazzo ha preso una testa da tenere il portatile molto verticale senza fare pendere l'antenna di lato. E sai cos'è? Per verificare se l'antenna risuona bene ci vorrebbe un analizzatore d'antenna, proprio l'attacchi all'analizzatore e ti fa vedere esattamente la frequenza di risonanza, però bisogna chiederlo ad amici perché è costoso. Sia tipo il Rig Expert 600, ce ne sono vari modelli, comunque centinaia di euro costa, però quello non è come avere il portatile con l'antenna sopra, è proprio lettura istantanea, ti fa vedere anche la larghezza di banda. E dai, riprendete un po' voi che riassetta un po' qua, dai. Vai Natalino, sì. Gianni, vai tu. No, ma comunque Marco, le ho viste io da poco, quelle antenne piatte, stai dicendo, quelle lunghe piatte che si piegano molto, le puoi girare, fare, come tu. Le ho viste da poco, non mi ricordo in che sito, cercando delle antenne e le ho viste, capito? Non ho controllato, le ho viste, però non sono andato a guardare le caratteristiche, capito? Le ho viste, ce n'erano di due o tre tipi, ce n'erano dalla più lunga alla più corta. Ma sempre per la 27 K. Ma per portarti o per portarti? No, per portarti. Adesso Gianni, allora forse ti riferivi non a quella nastro, l'antenna Flex, CB Flex, la faceva la Intec e la Midland, sì, era praticamente un'antenna caricata lunga forse 60-70, adesso non saprei, e non so se le vendono ancora, perché è tutta roba che poi dopo 8 anni di commercio non esci fuori catalogo, non ne trovi più. Adesso la cerco. Comunque Nicola, CB Flex, Charlie Bravo Flex con la X finale. Caspita. Ah, fuori, no, non disponibile. Mannaggia. Allora, CB Flex, BNC, antenna Flex, 53 cm, 53 sono, non tantissimi, per la 27 della Midland, però terminato su un sito, adesso controllo gli altri. 53, diciamo, non è tantissimo, il problema è come risuona questa antenna, perché ve lo dico in breve, un radioamatore aveva messo su un analizzatore d'antenna, in quel caso Rig Expert, no? Le antenne dei vari B-banda, sia Kenwood sia Baofeng, tutte le marche, no? Antennini B-banda, no? VU. E ha riscontrato che alcuni lavoravano con 3 di stazionari, anche con 5 di stazionari. Cioè antenne di serie che lavorano male. Ecco perché nel tuo caso quella telescopica andava male, probabilmente non avrà un mare stazionario. Vai, riprendete voi che cerco. No, no, no, è un'antenna leggermente morbida, avrà un'anima in fibra di vetro, una carica più o meno distribuita, e rivestita in gomma. Sono tipo le antenne dei VHF, dei portatili VHF, UHF, così insomma. Già, non riesco a farti un altro esempio, Gianni, vai, riprendi. Ma io non sto dicendo quelle, Marco, sto dicendo quelle che risultano piatte, come la piattina, sono piatte così. Sì, sì, le antenne a nastro. Ce l'aveva la Intec, ce l'aveva forse anche la Midland, però non si trovano più. È roba che tengono qualche anno in catalogo, poi sparisce. Ecco perché bisogna fare incetta quando la roba è disponibile. Perché poi non ne trovi più nemmeno dai rivenditori. Vedi Mantova, per esempio, la 1, la 5, la Turbo. Dall'Inghilterra hai detto che ce l'avevano. Purché sia originale, che non sia Sigma Eurocom che fa cose un po', vabbè, così così, dai, non tutte. No, l'ho trovata anche in Italia, sia la 5 che la 1, non mi ricordo in che sito, però l'ho trovata, costava 98 euro. Solo? Mi sa di imitazione però quel prezzo già, cioè in Italia è un prezzaccio mi quello. E c'era da comprare tutte quelle in magazzino e rivendersele al doppio del prezzo. E intanto le CB ancora le cercano le antenne, anche se pensandoci bene sono vanno giù, cazzo, sono ben bizzarro. Ricordati noi cosa abbiamo perso, il portatile Excalibur o la Fayette, come si chiamava, il gioiello, guarda. Con l'adattatore che mi cita. Se quello era un portatile a vivo, aveva detto Schmitzer, canali rossi, con la luce rossa, attacco PPL. Allora, Media Globe, Albrecht, antenna CB, flex per portatile, attacco BNC. E c'ha un leggero ispessimento al centro, no? C'è un po' più di bobina al centro. 31 e 31 euro, 34 euro, dipende come lo paghi. Non disponibile, scusate, ho sbagliato, non disponibile. Vi stavo salutando, ciao Claudio, ciao, cioè Gianni e Marco e Nicola, chiudo, vado a cenare, ciao, chiudo, ascolto prima e chiudo. Ciao Giulio, ciao, come mai così presto? Vabbè, ciao, ciao. Ciao Giulio, alle prossime, dai, buonasera, buon tutto. Vai Nicola. Ma dove te la metti l'antenna? Mica te la puoi portare appresso anche la piccola. Ce la metti a casa è un conto. Sono le antenne ti conviene prendere una base magnetica, mettertela sul terrato e vai meglio che così. Sempre che non te la facciano far piantare su te. c'è freddo quella sera, il fatto è questo. Ah, c'è un po' di umidità, ma adesso ci sta bene. Adesso stava anche piovendo. Ah, stai andando a conificare tua moglie così. Si è di 20 anni. Ti piacciono più le signorine a una certa età. Io 60, c'è l'età mia là. Una figlia, io invece ho una figlia di 27 anni. K. E io invece un maschio c'ha 18 anni. Ma diciamo che io mi ho voluto la vita. Prima di avere i figli abbiamo fatto i fidanzatini, andavamo a ballare, eccetera, eccetera. Comunque avevo 29 anni io quando mi sono sposato. E mia moglie ne aveva 24. Convivente l'ha vista male, l'ha vista come poca serietà, poca bocca, sì, prima l'ha vista così. No, mano a mano io ho vissuto, io sono stato 7 anni e mezzo fidanzato e poi mi sono sposato a 29 anni. Sì, mi ricordo che in Sicilia si usava così. E tu hai fatto la fuentina. Ah, Lupo Vigio, la fuentina hai fatto. Ho detto, tu la fuentina l'hai fatta. E adesso è cambiato tutto, là. Ma le donne per conquistare ci volevano mesi, adesso se non anni, adesso sono loro che conquistano a te, perché adesso non c'è più sopportazione, la donna pretende dall'uomo cose quasi impossibili, se per dire l'uomo lavora e cosa, torna a casa, guarda, devi lavare i piatti, questo e quell'altro, e l'uomo magari è stanco e cominciano lì le liti, capite, tutte queste fesserie. Ci sono le pretese, io dico una cosa, la collaborazione è giusto che ci sia, però praticamente non è giusto che vengano imposte le cose, quello non lo accetto. Anch'io lì sono così, io faccio tutto, cucino, pulisco, faccio, però da stilo mi è antipatico. E quindi si dà una mano in famiglia naturalmente, quindi speriamo che Vinci si accetta la pensione e che comunque 41 anni di contributi ad avere a che fare con bambini della scuola elementare, coraggio ce ne vuole. E poi la pazienza diminuisce, dai. Di discriminazione c'era anche prima, se trovo una bidella non si attava nessuno. Sì, è vero, anche quando l'ho fatto io. Era così. E anche io, grembiule nero, col fiocco rosso. Ah. ho fatto soldato, io ho fatto il soldato del vetro, se ti dico, lo sai, come professionale. L'anno invece c'erano gli elettricisti impiantisti, poi c'erano i tornitori e poi c'erano i saldatori, c'erano queste tre categorie qua. Io ero dei saldatori, facevo saldature elettro o acetili, che ci saldavo sia con l'ossigeno che elettrico. E niente, quindi vabbè, sono tutti maschi, non ce n'erano loro, tutti maschi erano proprio lì. Però alle medie ero qua a sinistra. E adesso delle donne ci sono tutte le parti, ci sono artisti di pullman, di tram, ci sono camioniste, insomma, sono tutti i lavori qua. Prima ho fatto due anni di scuola agraria, ma non mi piaceva, e ho finito il secondo anno e poi non ci sono più andato, e ho preso le due parti del viaggio professionale. Vabbè, lì mi sono trovato bene perché sono entrato alla Montubio a Portotone a lavorare, dopo di un po' però ha fallito e sono entrato dove stavo lavorando tuttora, c'ero 38 anni. Prendi l'arte e mettila da parte, se gli succede di avere qualche posto migliore dell'era, se ne fa ed è sempre all'avanguardia, là. Gamba gamba. E all'Enel stanno bene, dai. Che mansioni c'ha lui? Io invece anni fa l'ho fatto il concorso all'Enel, ero tra i primi, sono entrato, però come operaio, è operaio normale. Poi hanno praticamente bloccato tutto perché c'era stato un camuffo con quel concorso e l'hanno bloccato e me la sono presa in quel posto. Ma già sono pagati, gli straordinari che fanno li pagano. Vabbè, almeno è sistemato, dai, è un buon lavoro. Almeno c'hai un figlio che è sistemato e non hai problemi. Tua figlia invece lavora. E quanto c'ha quello di quello grande, quello che deve attaccare? Deve essere che sta bene. Lo sai cos'è? Che adesso andarsene da casa ci devi pensare due volte, perché le spese sono tante e conviene stare alle spalle dei genitori. vabbè, e magari anche affezionato, sai. Noi a casa mia, una mia sorella era così, nel senso si è sposata grande, perché mi piaceva stare a casa, ecco. E lei dice, ma io sto bene qua, cosa me ne vado a fare? Aveva il fidanzato e tutto, ma non si decideva mai a sposare. E già, però almeno diciamo che i nonni si ricordano di più i nipoti, perché da giovane devi lavorare, non ti godi i figli come ti godi i nipoti, invece i nipoti te li puoi godere meglio, sei in pensione, quindi te li puoi godere meglio. Ah, ho visto un programma a Forum l'altro giorno e parlava proprio di questo, che la figlia era allergica a certe cose, doveva mangiare certe cose particolari, e quando la mandava a casa dei suoceri la nonna gli dava cioccolato che non le poteva mangiare, faceva le patatine fritte, e dice, me la stava avvelenando la bambina perché invece ha delle allergie che non può mangiare certe cose, la nonna non lo capisce. E vabbè, i cartelli animati non hanno mai fatto mai nessuno, si rincoglioniscono di più col computer e col telefonino. Ciao, Lupo Grigio, buonanotte, dai, ci sentiamo, buona serata, grazie per il questo. Ciao, vai che ti stai prendendo malato, ti stai prendendo. Ciao Lupo Grigio, ciao già. Yeah. Io già, ho sbadigliato, forse abbiamo parlato in due. No, io sono servito e basta. Vabbè, ma qui, finita di mangiare. Da prima è che mi stava venendo la biocco, stavo messaggiando, ero con un occhio aperto e un occhio chiuso anche. Vabbè, ribadisco gli auguri a Lupo Grigio, sappiamo, a Nicola sappiamo, parlato in due. Vabbè, ho avuto tempi migliori, vediamo. Oggi ho visto una signora la mascherina tipo Cina da Lidl. Adesso non so se fosse una, sai, che fa cure, però non era mascherina chirurgica, mi sapeva di mascherina da psicosi, da coronavirus quello. No, no, adesso le mascherine le mettono praticamente a chi non ha anticorpi, tipo uno che ha un tumore, uno che ha la leucemia, tutte queste persone qua che fanno la chimio, mettono la mascherina perché non hanno anticorpi, ma di quelle verdi. No, appunto, non era di quelle chirurgiche. Sembrava più quelle che usano in Cina, in Giappone. No, più chiara. Un celestino chiaro, più o meno. Vabbè. Che poi me, già, detto tra noi, le mascherine chirurgiche non servono a niente proprio per i virus, batteri. Ci vuole una mascherina a fattore 3, fattore P3. Bloccare virus, deve essere la tenuta, cioè non ci deve essere spiraglio, sai, tra il naso e la mascherina, deve essere proprio attenuta d'aria. Vabbè, infatti i giapponesi e i cinesi hanno tutte queste mascherine tipo chirurgico, ma non vanno bene, non basta, ci vuole proprio un filtro P3 fatto apposta. In America lo chiamano N95 o N100, hanno standard diversi, però siamo lì. Ho capito. Comunque stanno sempre aumentando i morti, non so se hai sentito. È una cosa che stanno andando avanti, non stanno riuscendo a bloccare. Perché poi quel fettente, i virus anche influenzali normali mutano, cambiano. Ecco perché ci sono diversi ceppi già. È un po' una seccatura, speriamo che non diventi una cosa preoccupante. Vabbè, che con l'attrezzatura che ho posso sopravvivere a un attacco batteriologico. Il problema è che non puoi viverci con maschere, mascherine, guanti, non ci puoi vivere. Se deve succedere, succedemi. E come te lo fugli, stata a casa? No, non esiste. Ma io ho pensato anche che fosse una guerra batteriologica, la verità, all'inizio. Sì, qualcuno dice che potrebbe essere, come sempre, vabbè, lo dicono anche per un'influenza, che possa essere anche un virus sperimentale che, come sempre, bene o male riesce a scappare dai laboratori, perché l'uomo, per quante precauzioni possa prendere, sempre qualcosa ci scappa, capito già? Ma comunque, allora, film, guarda, per restare preoccupati, film consigliati, Contagion, il primo, fatto bene, e non con Jabidure. Parla di com'è una vera e propria epidemia senza fesserie, come si vede in quei film, no? Poi Survivors, serie TV, tanto per cambiare. Poi Virus Letale con Dustin Hoffman, quello sì che era fatto in laboratorio, bellino quel film. E te li guardi tutti, sei proprio appassionato di queste cose. Ti occupato mascherine antigas, di tutti di più. Sei tutto attrezzato. Sai cos'è già? Sto risentendo molto della polvere, troppo. Mi prende proprio alla trachea e ai polmoni. Per esempio, qua abbiamo fatto un ripulitino nella mia camera, che era un vero cesso, no? Un disordine che non ti dico, però assieme al disordine c'era anche polvere, sei sopra gli armadi. E io, per non stare a perdere tempo, mascherina non ne ho messo, ma stavo tossendo, tutta la sera tossendo già, non ne potevo più, mi stavo ammazzando. Sono sensibile alla polvere. Vabbè, che ti devo dire? Colpa mia, ce l'avevo disponibile, potevo usarle. Sarei all'inizio. Oh, devo andare a prendere le pastiglie dalla realtà, io da che devo dare di più. Ehi, già, pastiglia, perché? Cosa è un po'... poco bene sta? È stato male. C'ha una cistite prostatica e le fa perdere sangue dal più sentito, ma sangue però a gogo, a spruzzo riesce. E quindi sto facendo la cura adesso cavolo. Gli animali sono belli, però quando si ammalano le cure costano come per gli umani. Vabbè, dai, allora ti lascio andare già. Adesso mi attacco alla televisione. Ci sentiamo magari in migliori occasioni, ok? Ciao già, buona serata, buon tutto. Ehi, Marco, là, ci sentiamo, buona serata, anche a presto.